Cari amici, bentrovati, bentrovate, Maridì ai microfoni di questa caldissima sera bruxellese. Sì, sì, sì, sì, perché qui ci sono 30 gradi, quindi è proprio come stare al mare. No, mi guardano tutti con aria sconcertata. Sì, sì, fuori è bagnato come al mare, come proprio dentro l'acqua del mare. Immaginazione, immaginazione. Perché non vogliono collaborare con la mia fantasia? E oggi ho visto un filmino molto interessante che diceva che immaginarsi le cose fa delle modifiche nel cervello, come se uno avesse effettivamente fatto l'azione in questione. Ecco perché allora ho queste visioni. Ecco, quindi te lo immagini e non ti preoccupare, ce l'hai. Ok, vabbè, mi sembra essere una buona notizia, perché tutto sommato effettivamente veramente ci sono 30 gradi, però ovviamente in studio avrete già sentito le voci dei nostri compagni di viaggio, quindi saluto per la parte tecnica Dani M. Buona serata a tutti. Saluto la nostra Fiordaliso. Buonasera. E salutiamo il nostro Giorgetto, che invece è impegnato in altre faccende, diciamo così, in altre faccende affaccendato, e quindi non potrà essere con noi questa sera. La puntata tuttavia è molto molto ricca, soprattutto perché questa sera è la puntata dedicata alla penna del diplomatico, che non vede protagonista un diplomatico eccezionalmente, ma una giornalista, Susanna Pesenti, che invece ha scritto di un diplomatico che è stato effettivamente molto importante dal punto di vista storico e che ha caratterizzato poi quelle che sono state le modifiche delle Nazioni Unite, quindi parliamo dell'ONU, e probabilmente avrete già capito, parlo di Dag Hammarskjöld. Spero di averlo pronunciato correttamente. Il mio collega svedese stamattina, io infatti divido l'ufficio con un collega svedese, mi ha confermato che la pronuncia era oltremodo corretta, quindi spero di non far gaffe ripronunciandolo in questo modo. Dag Hammarskjöld è stato sicuramente qualcuno che ha rivoluzionato il modo di fare e di pensare delle Nazioni Unite. È stato il secondo segretario delle Nazioni Unite tra il 1953 e il 1961, quando purtroppo l'aereo sul quale era in viaggio, insieme ad altri collaboratori per un totale di 15 persone, precipitò per ragioni probabilmente naturali. Insomma, ci sono state dette tante cose su questa tragedia, perché effettivamente portava via con sé un personaggio, e questo poi ce lo darà Susanna, di uno spessore non solo politico e diplomatico di alto livello, ma anche di uno spessore culturale estremamente interessante. E Susanna per l'appunto ha ricostruito la vicenda di quest'uomo, che ribadisco essere proprio straordinario. Infatti vi suggerisco di leggere il libro, come ho già fatto in passato quando mi appassiono poi ad un libro. Cerco veramente di promuoverlo degnamente, perché vi permetterà anche di comparare anche un modo diverso di concepire quelle che sono le organizzazioni internazionali, in un momento in cui ancora oggi sulla stampa italiana si leggono molte cose non vere, come se poi denigrando la funzione pubblica, in questo caso europea, si potesse effettivamente risolvere i problemi magari del PIL italiano o dell'economia italiana, cosa assolutamente falsa. Mi ribadisco quindi che questa lettura vi permetterà veramente di entrare in un'ottica totalmente differente, di entrare in un sistema anche di valori che sicuramente probabilmente andrebbe un attimo almeno rispolverato. E quindi sarò felicissima di parlare con Susanna su questo personaggio, che tra l'altro si trovava in viaggio proprio in quello che era il Congo, che era appena divenuto indipendente. C'era in atto una sorta di secessione del Katanga, e lui, che era un uomo straordinario, pensate che è stato lui ad inventare i caschi blu, era già stato più volte nel paese proprio a cercare di mediare tra le parti e a rinvenire ad una soluzione. Siamo a Bruxelles, siamo in questa città che ha forti legami ancora tuttora con il Congo. C'è un legame forte che è stato rinnovato più volte anche da tutti i ministri degli affari esteri belgi, a volte magari con astio, altre volte con amore, altre volte poi con distacco, e quindi sono contenta di parlare di questa figura anche in questa terra che ci ospita e che per molto tempo vedeva nel Congo soltanto diciamo una colonia. Non possiamo nemmeno definirla colonia, perché era stata definita proprio possedimento personale del re. Quindi c'è questo doppio valore questa sera, simbolico per noi italiani qui espatriati, a parlare di Dag Hammarskjöld. La pace possibile, Francesco Brioschi, editore. E ci tengo anche a sottolineare che la prefazione è a cura di Giulio Terzi di Sant'Agata, quindi il ministro degli esteri italiano, il quale effettivamente sottolinea quello che è anche l'impegno dell'Italia a livello multilaterale. Sicuramente l'Italia resta tutto sommato tra le protagoniste non solo di quella che è l'integrazione europea, ma anche di quella che è l'integrazione ovviamente multilaterale. Volevo giusto svelare qualche parola su Dag Hammarskjöld, semplicemente per dire che era svedese, questo è probabilmente l'avevo già accennato. Era il quinto figlio di quello che era stato per un breve periodo anche primo ministro in Svezia, e la sua nomina, quando avvenne nel 1953, lui che era sottosegretario agli esteri, sembrava veramente per lui profilarsi una carriera effettivamente straordinaria. Siamo nel 1953, vi ricordo il contesto politico e geopolitico europeo da un lato e globale dall'altro. Vi ricordo che c'era in atto la guerra di Corea, vi ricordo che nel 1953 probabilmente c'era ancora in atto il piano Marshall, di cui lo stesso Hammarskjöld era stato protagonista come delegato svedese a Parigi. E quando fu nominato, per l'appunto, quando nel 1953, questa nomina arrivò con grande sorpresa. Ricordiamo anche che nel 1953 le Nazioni Unite erano quasi un po' agli inizi, no, di quella che era stata poi la disastrosa esperienza delle società delle nazioni, che si era aperta con tanta gloria precedentemente con Woodrow Wilson, che insomma ne aveva elencato tutta una serie di benefici, e che ricercava proprio una serie di personalità di ampio spessore per rilanciare quello che era il ruolo multilaterale delle Nazioni Unite. Siamo ovviamente anche nel momento in cui c'è questa ripresa non solo europea ma un po' più generale mondiale, anche perché erano tutti quanti reduci da quelli che erano poi le conseguenze della seconda guerra mondiale. E pensate che Hammarskjöld teneva anche un diario, ed è proprio da questo diario che la stessa Susanna Pesenti parte nel presentarlo. E pensate che Hammarskjöld alla sua morte è stato l'unico a ricevere un premio Nobel per la pace, già che quello era stato il suo impegno principale, in un periodo storico in cui effettivamente la pace non era soltanto un qualcosa da mantenere, così come lo può essere oggi nel 2013, ma era un valore veramente da conquistare, ancora da poter assicurare a tutti i cittadini. Volevo citare magari quello che di lui scrive il nostro ministro degli esteri, Giulio Terzi, il quale dice, quando pensa alla stessa figura di Hammarskjöld, dice: ci sono almeno tre livelli su cui riflettere quando si parla di questo eccezionale, chiamiamolo anche diplomatico: il Congo, il peacekeeping e la democratizzazione dell'ONU. E queste sono cose che magari oggi noi diamo scontate, ma che, come ripetevo, invece qualche tempo fa sicuramente non lo erano. E in più c'è ovviamente anche questa sua figura molto complessa. Era un uomo intellettualmente motivato, da valori etici forti, sicuramente radicati. Aveva anche quel senso di missione che probabilmente era impossibile nelle circostanze storiche in cui essa avveniva, ma di grande rilievo persino in un lunghissimo orizzonte temporale. E la stessa decolonizzazione del Congo fu uno dei processi che ebbe maggiore influenza in termini politici e giuridici sulle relazioni internazionali, anche perché sanciva, io direi anche finalmente, quella che era l'illegittimità del diritto alla colonizzazione. In questo senso l'azione svolta da Hammarskjöld fu sicuramente premonitrice, ma fortemente consapevole che la questione Congo costituiva un test ineludibile per quell'ordine internazionale che le Nazioni Unite si proponevano di assicurare. E do la, quindi il benvenuto a Susanna. Susanna, buonasera. Buonasera. Benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Grazie. Ho accennato un po' brevemente all'introduzione che il nostro ministro degli esteri, Giulio Terzi, ha scritto per questo tuo libro dedicato per l'appunto a Dag Hammarskjöld. E prima di iniziare a parlare di questo personaggio estremamente interessante e straordinario, e ti ringrazio anche di aver voluto condividere con noi questo tuo libro, volevo sottolineare una dimensione che per noi è importante, perché noi siamo a Bruxelles, questa capitale oggi non solo del Belgio ma anche dell'Unione Europea, che invece pensando e guardando al Congo qualche anno fa aveva probabilmente altri sentimenti. Quindi io vorrei cominciare proprio da qui, da questa dimensione belgo-congolese che Dag Hammarskjöld cercò di affrontare in maniera davvero premonitrice. E questo mi permette anche magari di salutare la comunità congolese qui in Belgio. Abbiamo anche intervistato qualche autore congolese qualche tempo fa e anche tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Susanna, tu sei giornalista, partirei con questa curiosità personale, quindi non sei né una diplomatica né una storica. E da dove nasce l'interesse insieme alla curiosità per Dag Hammarskjöld? La curiosità per Dag Hammarskjöld è nata mentre coprivo per il mio giornale una delle assemblee annuali all'ONU ed è nata da un dettaglio che da cronista non mi quadrava, e cioè a New York, il palazzo, intorno al Palazzo di Vetro, sia la piazza antistante sia la biblioteca sono dedicate a Dag Hammarskjöld. Ho scoperto, perché è posto sulla strada della sala stampa, che c'era un pennone di bandiera, un'antenna, in una posizione abbastanza defilata, che pure era dedicata a Dag Hammarskjöld. Mi ha incuriosito questa cosa, perché che bisogno c'era di dedicargli un segno così piccolo in fondo rispetto a tutto il resto che era già intitolato a lui. Allora, così cercando, chiedendo, eccetera, ho scoperto che era stato il personale stesso dell'ONU che dopo la sua morte aveva voluto dedicargli questa cosa, perché era il punto in cui lui si fermava, siccome è all'inizio di una scalinata che guarda sul giardino, che poi dà sull'East River, era il punto dove lui si fermava a pensare, a fumare, e il giardino tra l'altro l'aveva voluto lui, perché quando Hammarskjöld arriva al Palazzo di Vetro, il Palazzo di Vetro è appena, la costruzione è appena terminata, per cui è lui che in qualche modo rifinisce e sistema il palazzo, e ho pensato che fosse un dettaglio abbastanza insolito in un ambiente così democratico e rarefatto come quello della diplomazia, e di lì, diciamo, seguendo la coda dell'aquilone un pezzo alla volta, sono usciti tutti i dati della biografia che io all'epoca conoscevo a grandi linee, come tutti in sostanza. Ti posso solo dire che io sono laureata in scienze politiche e in relazioni internazionali, e la figura di Dag Hammarskjöld l'abbiamo solo accennata, quindi io sapevo semplicemente dai miei studi universitari che lui era stato il secondo segretario generale dell'ONU, e questa è l'informazione che si ritrova almeno nel libro di testo che io ho studiato. E prima di passare ai dettagli più propriamente tecnici del tuo libro, io vorrei che tu ci potessi fare, per tutti gli ascoltatori che non conoscono Dag Hammarskjöld, due profili. Se tu potessi raccontarci in qualche minuto, perché fortunatamente stasera abbiamo un po' di tempo in più, l'uomo pubblico da un lato, l'uomo privato dall'altro, e concludere con una sintesi proprio dell'uomo, cioè come queste due immagini, e tu lo fai molto bene nel libro, quindi come queste due immagini poi si sovrappongono, concludendo con l'eredità, qual è l'eredità che lui ci lascia? ci provo. Allora, l'uomo pubblico Amashold nasce in realtà prima dell'ONU, in quanto lui svedese, nato nel 1905 da una famiglia di politici, di statisti. Il padre di Amashold, che si chiamava Hjalmar, era stato ministro di Svezia negli anni della Grande Guerra, e quindi tutta una discendenza di una cultura di famiglia di servitori dello Stato sostanzialmente. E Amashold Dag, ultimo di quattro fratelli, è molto intelligente, brillante, fa una carriera rapidissima, si laurea in economia, in giurisprudenza, e con queste due lauree comincia a lavorare all'interno della burocrazia svedese, diventa anche segretario, vice segretario di Stato sostanzialmente, presidente della Banca Nazionale di Svezia, partecipa, cioè sostiene con questi ruoli la resistenza norvegese al nazismo, fondi per sostenerla passavano attraverso la Svezia, che era sempre stata neutrale, e approda alla scena internazionale col piano Marshall, che era il piano di ricostruzione dell'Europa finanziato dagli americani, e viene inviato alla conferenza di Parigi prima e poi ai vari tavoli per districare un po' le questioni. Si fa notare come un economista giovane e brillante. Poi ritorna in Svezia e nessuno ne sa più niente. Nel 1953 praticamente il primo segretario dell'ONU, che è il norvegese Trygve Lie, lascia l'incarico per dissensi interni. C'è un momento di vuoto, di disorientamento, e le potenze nazionali, che pure avevano dato vita all'ONU, c'erano già i famosi cinque del Consiglio di Sicurezza col diritto di veto, eccetera, cercavano qualcuno più tranquillo, un po' che avesse un profilo professionale solido, ma che fosse soprattutto un funzionario affidabile, perché si trattava di dare forma definitiva all'organizzazione, ma senza che ci fossero, diciamo, dei disturbi politici, ecco, doveva essere più un funzionario interno. Qualcuno si ricorda di Amashold e alla fine, per cooptazione, si concentrano su questo nome. Il giornalista che gli telefona nella notte tra il 30 marzo e il 1 aprile del 1953 telefona a casa di Amashold per dargli per primo la notizia, e il futuro segretario si arrabbia anche un po', perché è il 10 d'aprile, no? Perché per certo, il fuso orario in Europa era già spostata la giornata sul 1 aprile. Invece poi la notizia è vera, e Amashold arriva catapultato sulla scena internazionale, nessuno sa chi è in realtà, tranne un ristretto circolo di addetti ai lavori. Tant'è vero che un giornalista francese lo definisce l'ostrica più affascinante del mondo. È vero, sì. E tra l'altro lui non fa nulla per dissipare questo mistero, perché quando arriva a New York e viene intervistato la prima volta, dice una frase che al momento non viene capita e che invece lui sentiva profondamente, cioè i giornalisti, dice: attenzione, in questo momento, essendo io un civil servant internazionale, un funzionario internazionale, devo scomparire come uomo privato e deve emergere soltanto la mia funzione, perché altrimenti rischierei di non essere neutrale, di non essere equidistante, di non poter rappresentare tutti. E questa estrema riservatezza personale lo contraddistingue per tutti gli anni che passerà all'ONU, che sono 8, un primo mandato intero, 5 anni fino al 53-58, poi viene rieletto e resta ovviamente in carica fino alla morte nell'incidente aereo sul confine tra Zambia e Rhodesia, che ormai è accertato storicamente, anche se non ancora dal punto di vista giudiziario, non è stato un incidente ma è stato un attentato sostanzialmente. E come uomo pubblico è un uomo che affascina, che anche disorienta, perché è molto europeo come cultura, come modo di fare, eccetera, e come diplomatico porta avanti la sua azione con alcune parole d'ordine. Allora, le parole d'ordine sono quella della neutralità, nel senso che ho detto prima, quella del dare spazio ai nuovi paesi che si affacciano sulla scena internazionale per il ridisegnarsi degli stati nel dopoguerra, ma anche per la decolonizzazione. Lui prende proprio gli anni dell'Africa e dell'Asia che irrompono sulla scena internazionale, inventa degli strumenti nuovi perché si rende conto che il mondo è cambiato e che c'è un'interrelazione molto più profonda dal punto di vista economico, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista politico, per cui la diplomazia vecchia, bilaterale, felpata non può più funzionare. E mentre apre a tutti, si rende anche conto che a quel punto occorrono però, come dire, delle camere di compensazione, dei momenti più come dire, di diplomazia informale, discreta, dove alcuni nodi possano essere già affrontati in un, come dire, in un ambiente riparato prima ancora di arrivare a un dibattito che lui intuisce, anche per la pressione crescente dei media, diventerà sempre più pubblico e sempre più difficile da tenere, da gestire. Esatto, da gestire. E allora inventa la diplomazia quieta e poi addirittura la diplomazia preventiva, che sembra un po' una contraddizione, che la diplomazia di per sé è già preventiva. E però in queste, dietro queste formule si nasconde la dimensione politica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cioè Anna Scholz sostiene che un segretario delle Nazioni Unite, nello spirito della Carta e anche rispettando la lettera della Carta che istituisce le Nazioni Unite, può porsi come una specie di fiduciario dei governi, di punto di riferimento informale, in quanto non è un capo di Stato, ma abbastanza, diciamo, pesante per il suo ruolo, appunto per questo ruolo di supermediatore. E arriverà poi a allargare questo concetto, a inventare addirittura il concetto di presenza ONU, per poter lasciare, diciamo, dei funzionari antenna nelle situazioni calde, non so, il Medio Oriente piuttosto che altri punti, in modo che senza avere un ruolo, un mandato preciso, queste persone con il consenso del governo locale possano servire da segnalatori di crisi incipienti. Ecco, la sua preoccupazione è, nel nome del mantenimento della sicurezza e della pace, sempre quella di disinnescare le crisi prima che diventino troppo complicate da gestire, e soprattutto perché si accorge subito che l'ONU viene scelto evidentemente come capo espiatorio. Tutte le volte che gli stati non riescono a risolvere una crisi la scaricano sull'ONU, e contemporaneamente poi ne bloccano l'attività attraverso il gioco dei veti incrociati. Ecco. Quindi lui difenderà fino in fondo questa sua fiducia in un organismo supernazionale e questa necessità del segretariato, soprattutto di essere davvero sopra le parti. E c'è una seduta molto drammatica in consiglio, in assemblea, quando viene contestato da Khrushchev della delegazione russa, sì, perché a un certo punto resta preso nel meccanismo della guerra fredda e viene contestato apertamente. Khrushchev vuole che si dimette al suo posto, vuole una troika in modo da poter gestire meglio la situazione. Anna Scholz dice: io resterò al mio posto perché in determinate situazioni è più facile mollare, più facile ritirarsi, io devo restare perché l'Organizzazione delle Nazioni Unite non serve ai grandi paesi ma serve ai paesi piccoli, e quindi siccome non è semplicemente richiesto un avvicendamento di segretari, che potrei anche condividere, ma si tratta di un tentativo di smontare l'organizzazione, resto al mio posto sostanzialmente. Tra l'altro ci sono dei bellissimi filmati che si possono recuperare su YouTube, che sono stati rimessi, diciamo, in circolazione per queste due date. Lui è morto nel 61 e quindi c'è stato il 50° anniversario, e è stato appunto nominato nel 53, per cui quest'anno 2013 ci sarà il 60° della nomina segretario. In questa occasione a livello internazionale molti gruppi si sono mossi e veramente in internet si trova del materiale video, soprattutto molto bello. Bene, questo magari lo suggeriamo anche ai nostri amici all'ascolto, perché credo sia effettivamente interessante riscoprire questa figura che ha saputo sicuramente rinnovare questa istituzione che effettivamente in quel momento sicuro non godeva di tanta fama, probabilmente nemmeno oggi, ma comparando 1953 col 2013, insomma, tanta strada è stata fatta. Veniamo invece alla figura privata che emerge da questo diario, da cui poi ci sono tanti talenti che si possono ritrovare in Dag Hammarskjöld. Ci vuoi raccontare qualcosa in merito? Sì, volentieri. Allora Amashold aveva sostanzialmente due facce: l'uomo privato che appariva agli amici e conoscenti, eccetera, era quella di un uomo molto brillante, di un intellettuale appassionato di musica classica, ma anche di jazz, di arte contemporanea. Traduceva per passione in svedese le opere che lo colpivano e lo interessavano, opere di letteratura soprattutto, ma anche di filosofi come Martin Buber, eccetera. E quindi una personalità estremamente vivace, spesso usava a casa sua per organizzare riunioni, ma anche ricevimenti e quant'altro. E amava andare in montagna, gli piacevano molto camminare, soprattutto in Svezia, andava in Lapponia e si perdeva, nel senso che andava da solo con zaino e cartina, attraversava i ghiacciai svedesi. Più di una volta è stato recuperato da una guida o da un aereo, perché magari poi scoppiava una crisi, quindi prima in Svezia a Stoccolma e poi a New York cercavano di recuperarlo e riportarlo al lavoro. Tra l'altro, scusami se ti magari vorrei aggiungere un commento, che lui aveva anche fatto suo anche un detto relativo all'alpinismo, no? Che quando si cammina bisogna sempre guardare dritti, anche se si è incerti sui propri passi, non bisogna mai dimostrare di essere incerti, perché è proprio l'incertezza poi che può essere fatale. E di questo suo, diciamo, proverbio, se vogliamo dire così, poi ne fece addirittura veramente un motto di vita. Assolutamente, assolutamente, lo disse anche ai cronisti americani, che se lo annotarono senza capire esattamente che cosa volesse significare. Sì, ne fece veramente un motto di vita, perché era una persona che era estremamente determinata nel raggiungimento dei suoi obiettivi, aveva una capacità di lavoro pazzesca, anche 15-24 ore di seguito di lavoro concentrato, di... quando avevano un problema all'ONU avevano coniato una frase, dicevano passalo ad Aga, le titoli che se la sbroglia lui, effettivamente un leader da tanti punti di vista. E poi aveva questo, era molto riservato, in realtà molto timido su quello che erano i suoi sentimenti, eccetera. E aveva anche una profonda fede religiosa, mm-hmm, che non sbandierò mai né utilizzò mai per cercarsi consenso o quant'altro, e che fu anche dalle persone lì più vicine scoperta solo dopo la sua morte. Tu hai accennato al diario, è verissimo. Allora, nell'arco della vita, partendo dai 20 anni, Amashold aveva tenuto un diario, e quando veramente il gioco si fa duro, e con la crisi africana del Congo, del Katanga, lui sa che sta rischiando non soltanto la carriera, ma addirittura la vita, tipo lucido su questo. Prima di partire per l'ultimo viaggio africano riordina tutte le carte e sicuramente fa una scelta all'interno del diario, perché lascia una cartelletta ordinatissima, uh-huh, con una serie di testi e un foglietto rivolto a un amico che era il suo esecutore testamentario, che era Leif Rage, sì. E si rivolge a lui e gli dice: guarda, questo diario, a volte te ne ho parlato, non era inteso che dovesse essere pubblicato, ma ho cambiato idea, se tu riterrai di volerlo pubblicare, hai il mio permesso, puoi farlo, perché questo rappresenta il mio vero, virgolette, profilo, e la testimonianza, il libro bianco del commercio con Dio, con me stesso e con Dio. Esatto, sì. E dopo che succede tutto, naturalmente, il diario viene pubblicato ed è un diario di una profondissima intensità religiosa, quasi mistica in tanti risvolti, con una forte radice biblica, un cristianesimo anche aspro, molto ascetico, molto nordico, se vogliamo. Veniva da una famiglia luterana, della Chiesa Luterana di Svezia, quindi abbastanza austera come tradizione, dove c'è molto spazio per la responsabilità personale, per il dialogo diretto faccia a faccia tra il credente e Dio. E poi c'era anche questa, come filo rosso si ritrova in tutto il diario, che poi ha anche poesie, ha anche squarci naturalistici, ha degli accenni personali, non molti per la verità, Però ecco, c'è anche questo richiamo sempre ai mistici tedeschi, lui si rifà a Meister Eckhart, ad altri mistici del 400, del 500, dove l'aveva detto poi in realtà anche in un'intervista americana all'inizio del mandato, aveva detto che quello che lo affascinava in questi era, in questo tipo di cammino spirituale, era che questi mistici avevano trovato la forza di abbandonarsi talmente alla loro fede, fare una sorta di radicale atto di sottomissione, nel senso di affidarsi a Dio per quello che riguardava le loro scelte personali, che a questo punto avevano in sé una notevole libertà interiore che poi si manifestava anche nelle loro scelte, nelle loro azioni quotidiane, e che a lui cercava di conformarsi a questo perché riteneva che questo gli desse poi la miglior libertà d'azione possibile. Assolutamente. Se tu mi permetti, io volevo, poi avremo pochissimi minuti perché siamo in conclusione, il tempo è passato via rapidamente, c'è una piccola ouverture dei temi più cari ad Amschult, nel diario, nella sezione datata 1925-1930, in cui lui descrive il nord come una dimensione non solo geografica, ma anche spirituale. Io vorrei leggere per i nostri amici all'ascolto il primo verso e l'ultimo, perché nell'ultimo poi capirete che c'è forse una sorta di presentimento in Hammarskjöld stesso. Lui scrive: «E vengo spinto oltre verso una terra sconosciuta. Il terreno si fa più duro, l'aria più fredda e pungente. Le corde dell'attesa vibrano, mosse dal vento, della mia meta ignota». E conclude dicendo: «Domani ci incontreremo, la morte ed io. Immergerà la sua spada in un uomo che veglia, ma come brucia il ricordo di ogni attimo sperperato in vano». E io trovo questi due versi, per un uomo che comunque era un economista, diciamo primariamente, e poi un diplomatico, diciamo un po' più per coincidenza che per volontà, essere effettivamente di una profondità straordinaria, insomma, questa sua dimensione spirituale effettivamente mi ha notevolmente commossa, ecco, se non che non ritrovi le doti nei diplomatici, tant'è che siamo proprio nell'ambito della penna del diplomatico, però rileggerlo poi col senno di poi e, come dicevo in apertura, anche rispetto a tutte le critiche che un po' i funzionari internazionali ricevono, ecco, insomma, questo probabilmente potrebbe essere anche un modo per rivalorizzare queste figure stesse. Susanna, c'è magari un messaggio, magari un altro dettaglio col quale potremmo concludere e salutare quindi anche i nostri amici all'ascolto? Sì, credo proprio di sì. Io credo che il valore di Hammarskjöld adesso, al di là del quadro geopolitico dell'epoca nel quale lui si è mosso, e rileggendo nella vita e anche gli scritti e anche magari alcune parti dei discorsi, oltre che naturalmente il diario, è la sua estrema modernità, cioè è una figura che forse è più vicina alla generazione della globalizzazione e di internet di quanto lo sia alle generazioni più anziane, perché era estremamente avanti, cioè le sue intuizioni su quello che il mondo stava diventando, la sua inquietudine personale, il suo senso anche di solitudine di fronte a un mondo sempre più complesso, il suo profondo rispetto per tutte le culture non europee, che non era un dato scontato all'epoca, non lo è neanche adesso, ma a maggior ragione negli anni 50 e 60, ne fanno una figura che è estremamente, estremamente contemporanea, proprio nella grana del suo modo di pensare, di poter guardare le questioni, di muoversi anche, per cui è un messaggio il suo che io credo i giovani di questa generazione possano capire bene, possano davvero trarne tanti spunti, perché è molto vicina, molto non so come dire, è una personalità molto mobile, molto mercuriale, con tanti risvolti, con tante contraddizioni anche, ed è molto vicino alla sensibilità nostra, probabilmente molto più di quello che era vicino alla sua generazione, alla generazione dei suoi contemporanei. Tra l'altro magari possiamo salutarci dicendo che Dag vuol dire giorno, per altri anche luce, e quindi effettivamente un nome di cui ha fatto anche concretamente utilizzo. Susanna, noi ti ringraziamo, è stata veramente una conversazione straordinaria e ti ringrazio anche personalmente perché veramente ho colmato una lacuna che andava al di là di un nome e di un cognome. E un'ultima curiosità, perché secondo te per molto tempo è stato dimenticato? Perché è stato dimenticato, è stato, cioè è stato veramente sepolto quasi immediatamente, poi santificato eventualmente con il Nobel, però poi è stato dimenticato, almeno dai grandi, diciamo, delle Nazioni Unite stesse. Sì, perché, ma probabilmente all'indomani, cioè dal punto di vista della cronaca, per quanto era successo, per molti anni è stato scomodo e quindi, come tu hai giustamente detto, è stato santificato in fretta perché non si poteva fare altro, no? Gli era stato dato anche il Nobel alla pace, alla memoria, eccetera. E però, come spesso accade con queste personalità, diventano un po' imbalsamate nella loro vicenda biografica e restano così un po' accanto al mondo che scorre. Per cui penso che siano stati proprio delle reazioni un po' di timore, tutto sommato, o timore reverenziale o qualcosa che doveva essere nascosto in fretta, tranne che in Svezia, suo paese natale, dove evidentemente è rimasto una specie di eroe, però anche in questo caso forse appunto talmente eroe che poi su tante cose non si è andati a fondo più di tanto. E forse questo poi qualcuno ebbe a dire un po' di tempo fa, beato quel paese che non ha bisogno di eroi, quindi probabilmente rientrava in questa logica. Quindi Susanna, noi ti ringraziamo, spero che quando ti troverai a scrivere ancora altro, magari anche un saggio breve, insomma qualunque cosa, tu possa condividerlo anche con noi. Senz'altro, sono io che ringrazio voi, è stato veramente molto interessante e bello incontrarvi, anche se attraverso una radio, un telefono, senza potersi guardare in faccia, ma non importa, le voci. Magari, chissà, la prossima volta, mai dire mai. Quindi ricordiamo Susanna Pesenti, Dag Hammarskjöld, La pace possibile, Francesco Brioschi, editore, e vi ricordo che è possibile acquistare in tutte, insomma, le maggiori librerie online il volume, tipo per esempio, cito Amazon, che è molto conosciuto e che fa consegna anche qui a Bruxelles. Susanna, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi ancora. E a prestissimo. A prestissimo, arrivederci. Arrivederci. Lì, Brangolo. Grazie, ma quanto sei in linea con il titolo del mio libro. Come hai fatto? Meglio non svelarlo. Come ha fatto? Meglio, vabbè, stiamo. Restano i segreti del regista, quindi no, siamo nella suo trasmissione mistero. Sapete come ho fatto? Volete saperlo? Perché dicono sempre, alla fine sveleremo il segreto, vi spiegheremo perché, e poi non lo spiegano mai. Ma sono semplicemente andato su internet e ho scritto radioalma.eu/brussellando e lì. Comunque stasera parliamo di nuovo di Haruki Murakami, che comunque rimane una figura molto presente nella letteratura. Addirittura si diceva che per il premio Nobel dell'anno scorso e in genere per i premi Nobel della letteratura lui sia il prossimo più quotato. Ovviamente essere quotati e ricevere il Nobel sono due concetti completamente diversi, comunque già questo rispecchia il rispetto e anche la popolarità dello scrittore fra i suoi lettori e anche fra i critici. E E lo strano è che Haruki Murakami riesce a fare tutto questo nonostante il fatto che lui abbia una ricetta di fondo, perché uno generalmente dice, se tu hai una ricetta di fondo fondamentalmente magari ti ripeti e di conseguenza non sei più interessante, ma con Haruki Murakami questo non succede mai. Generalmente scrive di personaggi un po' alienati o che un po' in mezzo al loro cammino di vita si ritrovano un po' smarriti, sconnessi dalla realtà, e che attraverso degli incontri anche un po' magici, come diciamo un po' di magico realismo alla giapponese, cioè attraverso anche delle realtà magiche alla fine riescono o a riconnettersi a se stesso o comunque arrivare a un certo snodamento strano o meno strano. E in effetti si dice che lui abbia scritto il libro Norwegian Wood per dimostrare che lui può fare un libro anche senza immescolarci degli elementi magici. Comunque Norwegian Wood ne abbiamo già parlato, l'abbiamo già lodato, leggetevelo. Ma oggi parleremo di un suo altro libro che si chiama Dance, Dance, Dance. Anche in italiano si chiama Dance, Dance, Dance. Una cosa incredibile, non c'è problema di traduzione del titolo. No, però sicuramente gli piaceva anche balla, balla, balla, gli piaceva Dance, Dance, Dance. Non lo so perché. E qua Dance Dance Dance si riferisce proprio al protagonista che deve ballare la sua vita in modo completo, in modo che tutti lo guardino, diciamo, con ammirazione. In quel tal caso avrebbe trovato un po', si sarebbe ritrovato, almeno è questo il messaggio di uno dei personaggi mitici che spuntano nel libro. E anche, cioè, anche stavolta, come dicevamo, c'è una ricetta. Si tratta di un giovane che si è un po' smarrito nella vita, che non sa esattamente dove sta portando la sua vita e sente come un richiamo di riconnettersi. A che cosa? Lui deve scoprirlo. E attraverso il suo cammino incontra un sacco di personaggi abbastanza interessanti. Cioè, uno dei suoi amici è per esempio una ragazzina di 13 anni, un po' particolare, talentuosa, che però anche lei è un po' aliena nel suo mondo. E quello che e di nuovo ritroviamo anche degli elementi che contraddistinguono Haruki Murakami, cioè la colonna sonora che accompagna un po' il libro. Cioè qua menziono magari di nuovo che se ricercate fra i libri passati di Librangolo IQ84 troverete anche il link per la colonna sonora di IQ84 che abbiamo messo insieme qua nella trasmissione. E la colonna sonora di Haruki Murakami generalmente non è mai brutta, non è mai, cioè è particolare, ha un suo perché. Cioè quindi ritroviamo anche questo libro, questa colonna sonora, e ritroviamo anche, cioè, una ampia immensa fantasia nell'inventarsi dei personaggi a cui, nonostante gli elementi fantastici, riusciamo a credere proprio 100%. Haruki Murakami, cioè, riesce a creare delle situazioni mettendo dei dettagli che magari possono anche sembrare troppi, ma non sono troppi, perché creano proprio questa atmosfera, questa precisione nell'andare verso lo snodamento finale. Quindi continuo a raccomandarvi quasi qualsiasi libro di Haruki Murakami. L'unica cosa che a me non è piaciuto è la sua opera di storie corte, di novelle, che sinceramente uno ha sempre il sentimento di essere dei romanzi stroncati, un po' persi nello spazio, mentre i suoi romanzi occupano lo spazio che gli spetta e sono intere e integre. Quindi vi raccomando, come anche altri libri, vi raccomando calorosamente di divertirvi con Dance, Dance, Dance. Vogliamo ricordare l'editore, magari? Penso che sia Einaudi, comunque, quello di Haruki Murakami, anche se non potrei giurarci. Comunque, stasera, visto che hai parlato di premio Nobel della letteratura, nel caso in cui dovesse vincere Murakami il premio Nobel, tu preparerai uno special dedicato a Murakami. Cioè, e tra i papabili? Sì, gira, come diceva Fiordaliso, gira a voce che potrebbe essere uno dei papabili. ed è un po' che il premio Nobel della letteratura non va in Giappone, tra l'altro. Sì, l'avevano già menzionato per 2012, cioè era uno di quelli quotati dai critici che generalmente fanno un po' di scommesse su chi sarà, chi non sarà, ma molto spesso le scelte del comitato Nobel sono un po', cioè in inglese lo so come si dice, far-fetched. Non lo so come lo dire in italiano, comunque è come se... Imperscrutabili. Sì, no. Imperscrutabili, vengono da qualche lontananza e comunque offrono la possibilità di scoprire delle realtà nuove, perché generalmente vanno a pescarli da posti... Non so come vanno a pescarli, sinceramente, però... Cioè, generalmente fanno anche scoprire delle nuove realtà, però a volte e molto spesso non coincidono con quello che, per esempio, il pubblico sceglierebbe. Come in questo caso Haruki Murakami era davvero molto quotato, mentre il suo collega cinese, su cui corrono anche voci un po', diciamo, molti voci negativi, non era veramente tanto apprezzato, cercato, eccetera, dai lettori. Ebbene, noi di Brussellando ovviamente auguriamo la vittoria al migliore e poi sulla... chiunque sia, non esiste. Al migliore, in maniera tale che insomma chiunque vincerà sarà il benvenuto ovviamente nel librangolo di Fiordaliso. E a proposito di libri, voglio ricordarvi un evento al quale l'anno scorso abbiamo partecipato con entusiasmo e gioia, che è la Fiera del Libro. Ormai sì, siamo alla fine di gennaio, la Fiera del Libro ci sarà tra il 7 e l'11 marzo e spegnerà, immaginate, 43 candeline. E quest'anno il paese ospite ci riguarda un po', perché insomma Radio Alma habla l'espagnol también, è la Spagna, quindi insomma cercheremo, dato che probabilmente si è capito, sto studiando un po' lo spagnolo, di procurarci anche qualche intervista. Non posso far promesse ovviamente, perché sapete che non dipende interamente da me, però ce la metteremo tutta. Più dettagli comunque seguiranno, insomma questo è solo per ricordarvi di bloccare già queste date, dal 7 all'11 marzo, perché cade un po' più in ritardo rispetto al solito. Invece per le nostre agende italo-italiane, per dirla in maniera veloce, vi ricordo Max Gazzè il prossimo 27 febbraio al Botanique, per informazioni sia Bait Live che la Libreria Piola, e Franco Battiato, che invece il 27 marzo sarà al Bosar. Quindi se googlate un po' Bosar ritroverete tutti gli elementi per poter prenotare. Informazioni anche sul nostro blog. Il biglietto. Su Max Gazzè ci sono già informazioni sul nostro blog, mentre tra qualche giorno, spero, perché sto aspettando maggiori informazioni, ne ritroverete anche su Franco Battiato. Invece il prossimo 5 febbraio avremo ospite, però in libreria, la Libreria Piola, Amadio Bianchi, che era stato già nostro ospite telefonico qualche settimana fa. Amadio viene a Bruxelles, quindi per quanti volessero partecipare ad una serata dedicata all'Ayurveda e al benessere psicofisico, siete tutti i benvenuti alle ore 17:30 a Rue Franklin a Bruxelles. E io saluto tutti, saluto Susanna Pesenti, che è stata effettivamente squisita, che ha cercato di sintetizzare su questa figura veramente affascinante di cui ci ha parlato. Saluto Dani M in regia. Buona serata a tutti. Che ovviamente sta lì, a volte io ve lo vorrei far vedere, con quelle mani sembra veramente Edoardo Mani di Forbici. È il ruolo del regista. Saluto Fiordaliso. Grazie, buona serata e buona lettura. Saluto il nostro George, che ci è mancato, perché effettivamente il suo tocco questa sera non è qui con noi. Verve. Mary D vi saluta, vi auguro. Anche noi salutiamo Mary D e ringraziamo Mary.